Benvenuti al sesto episodio di La casa del ciliegio. Oggi parliamo di come la mindfulness può aiutarci a gestire lo stress. Se ti senti sopraffatto dalla vita quotidiana, con la mente che corre all'impazzata tra mille pensieri e preoccupazioni, questo episodio è per te. Iniziamo dicendo che lo stress è una risposta naturale del nostro corpo a situazioni che percepiamo come sfidanti. Tuttavia, se non impariamo a gestirlo, lo stress cronico può avere un impatto negativo sulla nostra salute fisica e mentale. Ciò che accade è che il nostro corpo entra in modalità di lotta o fuga e quando non possiamo fuggire o combattere, accumuliamo tensione e disagio. La mindfulness ci aiuta a interrompere questo ciclo di stress, permettendoci di vivere nel presente e di rispondere ai momenti difficili con maggiore calma e lucidità. Quando pratichiamo mindfulness, impariamo a rilevare i segnali di stress nel corpo e nella mente prima che diventino travolgenti e a rispondere in modo più consapevole e meno reattivo. Una delle tecniche più efficaci per ridurre lo stress è la meditazione del respiro consapevole. Focalizzarsi sul respiro ci permette di ancorarci al momento presente, riducendo la tensione mentale e fisica. Un'altra tecnica utile è il body scan, che ci aiuta a prendere consapevolezza delle sensazioni nel corpo e a rilasciare tensioni accumulate. Infine, se desideri imparare a gestire meglio lo stress, ti invito a partecipare ai miei corsi di mindfulness, dove esploreremo insieme queste tecniche in modo più approfondito. Nella prossima puntata parleremo della mindfulness e dell'ansia, esplorando come la consapevolezza può aiutarci a vivere più serenamente, anche quando l'ansia sembra sopraffarci.